This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. No. Yes, no. These guys are gonna get their asses kicked for like making a bunch of noise on this dude's farm. Screw. Screw. A dog. And if you look off to your right, you'll see a barn. A barn. You think they're gonna close the barn door? Yeah. That reminds me of this joke. There was this traveling salesman, and it's like he went to this farmer's house, and then his car broke down. And so, like, the farmer wanted to do it with his daughter, but he told him not to. And then he had all these eggs. And then he, like, did it with the farmer's daughter. E buonasera a tutti, bentornati dal vivo in diretta con This is not an exit, 21.06 minuti primi, oggi è il 4 maggio 2017, tanto per farvi capire che siamo tornati. Bentornato dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti, sì, siamo tornati dopo due settimane di, insomma, di ferite, diciamo. Di vacanza, dai. Sì, vacanze. Parliamo un po' infatti delle nostre belle vacanze. Insomma, chi è stato negli Stati Uniti, chi in Olanda, chi, insomma, no? Eh sì, perché anche il dottor Cortesi qua con noi. Buonasera. Bella. Eh sì, insomma, siamo radiofonici vacanzieri e viaggiatori, a quanto ho capito. Bene, bene, bene così. Comunque si fa esperienza anche dal vivo, no? Perché magari poi uno girando conosce gruppi, vede situazioni, insomma, è bello così, insomma, anche questo e fa arricchire la radio, vero Matteo? Sì, ha voglia. Ma io sono stato in pochi posti, però devo dire che qualche concerto l'ho visto, ma non sono stato a Boston, da dove vengono gli eroi di questa puntata. Prima abbiamo fatto sentire qualcosa di molto, molto particolare. Erano i Morphine, come dire, con due intrusi che negli anni 90 erano parecchio famosi, Beavis and Butthead. Magari qualcuno se li ricorda, erano due eroi a cartoni animati anti-eroi, veramente, della MTV dell'epoca. Doppiati dalla stessa persona, tra l'altro, il creatore della serie, Mike Judge, che prestava anche la voce a entrambi i protagonisti di questa serie. All'inizio degli anni 90 internet praticamente non esisteva ancora su larga scala e Beavis and Butthead era la fonte principale di informazioni per quel che riguardava la musica nuova. Anzi, il dottor Cortesi ha scoperto i Morphine grazie a Beavis and Butthead. Precisamente, proprio grazie a questo video qui. Era il video di Thursday in cui Beavis and Butthead li schernivano e in lingua originale raccontano la barzelletta di un commesso viaggiatore di cui non ho capito il finale, perché comunque in italiano è... Il cartone animato è stato doppiato prima da Paolo Rossi e poi da Elio e Faso e molte battute erano completamente stravolte per rendere meglio in italiano. Quello che mi ricordo è che in italiano non era così. Your brain is calling to me one more time. Your brain, your brain. 21 e 13 minuti primi, This is not an exit in compagnia dei Morfine. Ok, non abbiamo contestualizzato tanto tra saluti e cose varie. Ricordo intanto che però potete mandarci qualche messaggio WhatsApp su 348-76-49-289, ricordo ancora 348-76-49-289, ma siete comunque in ascolto di un gruppo che per noi è stato molto molto importante. Si sono formati all'inizio degli anni 90 e non erano proprio dei novellini. Anzi, direi che la gente che andava già per... era ben oltre i 30 anni, aveva come dire, una buona esperienza in gruppi di pub rock, si diceva allora, comunque rock abbastanza orecchiabile. Poi a un certo punto il cantante Mark Sandman, e bassista, decise di prendere una strada un po' più sperimentale, quantomeno a livello strumentale, cioè tolse le due corde più acute al suo basso e cominciò a suonarlo con una slide. All'inizio le tolse addirittura tre. Cominciò con una corda sola. Una corda sola. Poi si finalizzò con le due corde più basse, infatti le sonorità le avete sentite, sono particolarmente basse, se avete un buon impianto ve lo godete particolarmente questa sera. Ebbene, niente chitarra nei Morfine, che era una cosa abbastanza particolare. Basso sax baritono, basso con due corde e batteria. E qua e fin qua era già una buona novità, ma non solo, non è che poi le composizioni fossero così orecchiabili, anche se poteva sembrare a un primo ascolto un revival di jazz, rockabilly, un miscuglio di queste cose, ma non penso fosse il loro intento. Erano troppo cupi per essere rockabilly, troppo rock and roll per essere jazz, insomma una cosa piuttosto innovativa, soprattutto per un pubblico rock. Ricordiamo che siamo nel 91-92 e sono gli anni del grunge, riescono comunque a emergere, appunto, anche Beavis and Butthead li prendono per i fondelli, quindi in qualche modo i Morfine venivano fuori. Thank you. sitting at a blackjack table, and I swear to God my dealer has a tag, says Mabel. Hit me, hit me. I smile at Mabel. Soon they're bringing complimentary drinks to the table. There's win and winners play. Have a lucky day. There's win and winners play. Have a lucky day. Mabel gives me a great big smile. Un'altra cosa che ci fece, magari non a tutti, ma a me in particolare, conoscere i Morphine, a parte Beavis and Butthead, erano sicuramente le riviste musicali che ne parlavano strabene, ma anche il loro sound, che era molto legato al noir, alla musica noir, lo evocava più che raccontarla. E chi leggeva noir, come sottoscritto, magari i classici anni 30-40, come Chandler o Hammett, non poteva non rimanere affascinato. Tra l'altro, proprio in questo periodo, all'inizio degli anni 90, esplodeva uno scrittore, era già in realtà molto famoso in America già negli 80, come James Ellroy, che poi avrebbe raggiunto la fama planetaria grazie a Hollywood, che proprio Mark Sandman saccheggiava, o comunque sentendo un po' le sue interviste e leggendo di qua e di là, c'era proprio dentro e lo leggeva parecchio. Qualcuno parlava di neo-noir, beh, non so quanti gruppi, soprattutto in quegli anni, direi quasi nessuno, perché, come dire, il gotico era già passato e comunque non aveva questi suoni e di sicuro usava le chitarre. Non so quanti gruppi fossero in grado di evocare atmosfere nere, cupe, nichiliste e soprattutto sinistre con una strumentazione di questo genere, pur con un canto da crooner, sembra quasi Sinatra, no, sto quasi bestemmiando, però insomma ha un modo di cantare melodioso. Tutto il resto invece, l'accoppiata basso slide e sax, era parecchio inquietante. Per un ragazzo abituato a sentire rock chitarristico, non so come mai, ma erano comunque estremamente affascinanti. Poi, tra l'altro, i Morphine si inseriscono nel periodo in cui James Ellroy stava transitando da periodo prettamente poliziesco, giallo, i primi romanzi, Le strade dell'innocenza, Prega Detective, cose così, al passo successivo, a livello successivo degli LA Confidential e di vari American tabloid, prima ancora la Dahlia Nera, e i primi romanzi erano poliziesco puro, poi dopo diventeranno sempre più complessi, sempre più stratificati, e i Morfini intercettano precisamente quel periodo, il periodo di transizione. You look like green. a whip on a horse's back, stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. Look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, yeah, you look like rain. minuti primi, siete sempre su Radio Città del Capo, stasera Morphine da Boston, un gruppo appunto che ha perversato per tutti gli anni 90 e insomma poi la fine del gruppo è avvenuta precisamente a Roma e a un concerto quando il bassista Sandman è crollato sul palco all'età di 47 anni, giovane, aveva magari dei problemi, non so di preciso che problemi di salute, però è stato un dramma insomma per tutta la comunità che li seguiva, numerosa insomma, anche in Italia. Sì, sicuramente è stato davvero un dramma e insomma, però forse morire sul palco per un cantante, per un artista è forse una insomma, non fa parte dei cliché delle rockstar. Il fatto che Mark Sandman non era una rockstar, perché i Morphine, più che di un gruppo di nicchia di culto, non sono mai stati. E in più neanche a Roma è morto. Morì in provincia, in un concerto di provincia a Palestrina. Sì, e neanche era il classico tossico dipendente morto di abusi, no, niente di tutto ciò. Proprio da film noir, di quelli che probabilmente evocavano le sue musiche. Sì, proprio una morte davvero assurda, però insomma quello è successo, questa è la cronaca. Però noi piace ricordarci quando erano sui palchi a suonare e facciamo sentire i pezzi. Of the room, I hear a voice cry out, you want something good, well come on a little closer, let me see your face, yeah come on a little closer by the front of the stage, I say come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste. She had black hair like ravens crawling over her shoulders. All the way down. She had a smile that swerved. She had a smile that curved. She had a smile that swerved all over the road. Los Angeles era un inferno fuligginoso che orbitava sotto una stella buia, accecato dal bagliore dei flash dei giornali scandalistici. Un abitante su tre era guardone o ladro, o omosessuale o truffatore o fiuta mutande o prostituta o strafatto di ero o strafatto di anfe o magnaccia. Gli altri due terzi della popolazione erano composti di culi stretti che cercavano di resistere all'impulso di sbirciare, rubare, truffare, omosessuare, strafarsi di ero, anfe, fiutare mutande. Tale abnegazione di massa aveva provocato una dislocazione sismica con conseguente scostamento di 6 gradi di Los Angeles rispetto all'asse centrale del pianeta Terra. Thank you. I could go on. Of course I said I couldn't, and of course we knew that's wrong. But Candy, I said, Candy, no, you can't do that to me, because you love me way too much for you to ever leave. Candy says she's made arrangements for me in the sand. Oh, Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she's made arrangements for me in the sand. And Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down. ...21:47 minuti primi, i brani dei Morfine si alternano a nostre divagazioni prese da, vabbè, appunto, possiamo dirlo, da romanze, citazioni di Elroy. Loro sono stati influenzati da Elroy e noi ve lo facciamo un po' sentire. Suona tutto bene, cupi e notturni come i Morfine, sono stati pochissimi gruppi. La cosa particolare è che penso siano piaciuti trasversalmente a un pubblico di ragazzi e di adulti. Anzi, mi ha sempre stupito che gente molto più grande di me li conoscesse, e andando a vedere i loro concerti, vabbè, loro stessi non erano dei ragazzetti, ci fosse gente di un po' tutte le età. Ripeto, era all'inizio degli anni 90 e il mainstream proponeva tutt'altro. Da Boston veniva tutt'altro, dico bene, dottor Scarpa? Beh sì, anni 80 era la capitale dell'hardcore, di quello proprio più integralista. Ricordiamo che uscì addirittura una raccolta di tutti i gruppi di Boston hardcore che si chiamava This is Boston, Not Los Angeles, proprio per rimarcare il fatto che erano loro la capitale dell'hardcore, quello proprio integralista appunto. E quindi sì, loro si trovavano in questa situazione, però comunque Boston è una città tanto grande che comunque può contenere varie insomma tendenze e generi musicali, perché comunque Boston, ricordiamo che è una città del Massachusetts, una delle più influenzate dalla cultura europea, molti immigrati irlandesi, però è una città grossa con problematiche abbastanza dure, insomma una città, una tra le più violente degli Stati Uniti, della costa est, insieme a Philadelphia e a New York. Quindi comunque venivano da questo sottobosco e si sente insomma alla fine anche nella musica dei Morfine. Sì, soprattutto in quegli anni. Poi mi sembra di aver visto in giro per Bologna dei manifesti che pubblicizzano Boston per i turisti. Boh, sarà cambiato qualcosa, anzi sicuramente. Someday, cross my fingers and I hope to God I knock on wood and pray with all I've got. Cross my bow with a cannonball, I see the writing on the wall. And there's no clue where to go and what to do. Yeah, who to dog, who to ride, and who to hold forever by your side. Forever by your side. Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my, Mary, won't you call my, Mary, won't you call my name? Of a rich man's daughter, she led me like a lamb. No bother to go and live inside a barn on her daddy's 90-acre farm. Hide your daughters in the snow and watch out for the undertow. Hold both hands against the door and dig your feet into the floor. I tell you there's no map and there's no clue or where to go and what to do. Who to dog and who to ride and who to hold. Forever by your side. Forever by your side. Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my name? Mary, won't you call my, Mary, won't you call my, Mary, won't you call my name? minuti primi, siete sempre in compagnia di This Is Not An Exit e dei Morphine. A microfoni spenti si discorreva qua in studio del fatto che gruppi come i Morphine non hanno avuto imitatori. Strano, perché è un classico. Vabbè, non hanno mai avuto un successo planetario, però è abbastanza consueto che, se non altro per motivi meramente discografici, cioè della serie, un gruppo ha successo e i talent scout, che esistono ancora, non lo so, ma allora esistevano e giravano per le sale da concerti a raccattare gruppi, beh, insomma, se un sound aveva successo cercavano di accaparrarne uno simile per la propria etichetta discografica. Con i Morphine avevano, penso, un sound appunto che era così contraddistinto, così forte, anzi secondo me erano riconoscibili immediatamente e caratterizzati proprio dal loro sound, molto più di tantissimi gruppi del periodo. Avevano groove, si dice così, cosa che per un punk... Sì, quella magica parola che vuol dire tutto e niente. Sì, io non ho mai capito bene cosa volesse dire, però ce l'avevano, legavano bene tutto, anche se suonavano cose tutt'altro che orecchiabili. Beh, poi Madonna tirò fuori Into the Groove negli anni Ottanta, spiegava un po' cos'era il groove e diventò famosa, parola famosa, insomma, dalla sulla bocca di tutti. Into the Groove, che poi fecero anche i Ciccone Youth, insomma... I Sonic Youth, firmati Ciccone Youth. Una delle ossessioni dei Sonic Youth. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. Have it. March 4th, 1982. Tank of gas in an empty pocketbook. I better get it to the bank. High up in a glider, high up here without a care. I got all the time in the world. I got all the time in the world to spare. Allora Mark, dove andrete in tour? Stiamo pianificando e torneremo ovunque siamo già stati prima, cioè Giappone, Australia, Europa. E il responso da parte del pubblico varia da posto a posto, ma in generale abbiamo sempre avuto un riscontro molto buono, per questo torneremo dove siamo già stati. E abbiamo fatto diversi tour nei club con grande successo, praticamente ovunque. E il Portogallo per qualche ragione è impazzito per i Morphine, non so perché. E anche il Belgio per noi è buono, e l'Australia, in Australia abbiamo avuto due tour sold out, totalmente sold out, e anche gli Stati Uniti vanno bene per noi. alcune città sono state un piccolo extra. Così ci fermiamo qualche notte in più a Chicago, Los Angeles, New York, Austin, New Orleans, Boston, ovviamente. E abbiamo suonato in posti da 500 fino a 1500 persone. E l'Inghilterra invece per noi non è altrettanto buona, ma abbiamo avuto un sacco di apparizioni televisive e abbiamo suonato a Glastonbury e a Reading. E sono molto concentrati sulla loro musica, come sempre è stato del resto. E in Inghilterra sono molto nazionalisti, ma d'altra parte io sono contento che ci sia un paese dove rimangono affezionati alle loro radici, alla loro musica. Gorgeous and dressed in blue. I know it drives you crazy when I pretend you don't exist. When I like to lean in close and run my hands against your lips. Though we haven't even spoken, still our senses are a rapport. So whisper me your number, I'll call you up at home. Whisper me your number, I'll call you up at home. Don't worry, I'm not looking at you. Mark, non ti sorprende che i Morphine con la loro strana strumentazione attacchino bene col pubblico? Sì, è stata abbastanza una sorpresa quando le cose hanno cominciato ad andare bene. È divertente, è un gran divertimento. Ci piace quello che facciamo. C'è ovviamente un sacco di fortuna. E questo gioca, la fortuna gioca un ruolo fondamentale. E oltre a questo, il tempo e le possibilità. E penso che sia giusto dire che siamo una band di successo imprevedibile. E certamente non lo eravamo quando abbiamo cominciato a suonare. Non abbiamo cominciato dicendo ok, noi siamo questo, abbiamo scoperto un modo per andare in giro per il mondo. È stato più qualcosa del tipo proviamo per uno show e vediamo se possiamo uscirne fuori intatti. Ma qui, quindi, alla fine sì, siamo stati sorpresi dal successo che abbiamo riscontrato e siamo felici. E sapevamo che alcune persone ci avrebbero amato fin dall'inizio, ma non avevamo idea quanto lontano ci saremmo potuti spingere con questo. Chi avrebbe... (Sussurra)

after dinner meant early to bed and early to rise. Makes a man or woman miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise. Makes a man or woman miss out on the nightlife. Beh, con questa 22-21 minuti primi, cari ascoltatori e ascoltatrici, grazie per la pazienza, siamo in saluti. Buonanotte a tutti con questi Morfine, buonanotte al dottor Scarpa, buonanotte al dottor Cortesi. Bella. Sì, a giovedì prossimo quindi. E a giovedì prossimo con un'altra novità dal passato, possiamo dire così? Beh... Novità perché di solito mettiamo cose poco ascoltate. Novità, sì, però comunque del passato, sicuramente su gruppi che si rifanno, no, 80-90, quello insomma che peschiamo noi. I nostri sotterranei. Eh sì. Thank you. never heard before. Off the map where the wild things grow. Another world outside my door. Here I stand, I'm all alone. Drive me down the pitch black road. Lila, you're my only home. And I can't make it on my own. You're a bedtime story. The one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me. Cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. You're the pink can falling off the wall. You're the door that slams at the end of the hall. You're the catering sounds of old basketball. You're the man of the moon with the angels. The shifting snare of some realistic sun. And you're listing all your carpet and stars. See the sun in the yard. It's awful dark. You're the moonlit streets, the clothes, the good luck charm. The prayer, the extra layer, the great distance. Pump up the volume. Pump up the volume.